Elba, 15 agosto 1967. Care Eleuterio, è incredibile come qui sia sempre tutto uguale. Ho il mare davanti, la sabbia di sotto e l'albergo di dietro. Il mare è leggermente increspato e vedo qua e là tante piccole onde bianche. E io penso che anche il mare di tanto in tanto ama farsi fare le mèche dal vento. E penso anche che sei un litigioso, Eleuterio. Non si accendono cerini sotto le tende dell'albergo solo perché una moglie fa un bagno in piscina. Cambia l'acqua ai pesci rossi. Sempre tua. Roma, 16 agosto 1967. Inesplicabile sempre mia. È tutto sbagliato. Dovresti avere, secondo me, un burrone davanti e un toro infuriato di dietro. E sarebbe una delle poche volte che non mi stancherei di aspettarti giù, in fondo al burrone. Hai ragione. Non si accendono cerini sotto le tende di un albergo solo perché la propria moglie ha fatto un bagno in piscina, anche se la piscina è stata da te voluta e potenziata. No, non si accendono cerini, si accendono micce, e non sotto le tende, sotto le mogli. E sabato, quando verrò, puntualizzeremo la cosa. Eleuterio. Ho scritto. I pesci rossi hanno cambiato acqua. Sono nella vasca da bagno, ma non credo che i sali che io uso siano di loro gradimento. Elba, 17 agosto 1967. Care Eleuterio, sorianuncolo, nota la degnazione con la quale, più che vezzeggiarti, ti sorianeggio. Il mare ha molte meno mèche stamattina. Un motoscafo corre veloce. E io penso che un motoscafo è solo una barca attrezzata per fare lo shampoo all'acqua salata. Non si provocano incendi, Eleuterio, solo perché alcune signore annoiate si organizzano una piscina per quando il mare è nervoso. I pesci rossi non amano i sali da bagno, quindi levali dalla vasca. I pesci, non i sali. Sempre tua. Roma, 18 agosto 1967. Irriducibile sempre mia. Parli di piscina per signore annoiate, senza entrare in particolari. Hai dimenticato tutto? Io no. Sabato è prossimo. Preparati al peggio. Eleuterio. Ho scritto. I pesci nell'acqua sono difficili da recuperare. Ho levato l'acqua e li ho recuperati. Ma non sono più rossi. Sono viola acceso. E immobili. Che devo fare? Elba, 19 agosto 1967. Caro Eleuterio, migione! Quando i pesci sono immobili e viola, essendo stati rossi e mobilissimi, forse sono anche morti. Anche il mare è immobile e viola stamattina, ma non è morto, è Tirreno. Ricordo esattamente tutti i particolari, Eleuterio. Eravamo come al solito a guardare oltre la vetrata, tu ed io, e... Il mare è agitato, Eleuterio, chissà perché. Avrà fatto anche lui un viaggio impossibile, fino a qui. E avrà fame anche lui. Eleuterio, il mare è agitato dall'altra settimana. Non può essere la faccenda del viaggio. Beh, sta sempre meglio di me, che sono agitato da 18 anni. Da quando, cioè, ho commesso la leggerezza di dichiararmi disposto a vivere con te. Se ti sentisse la mamma, resterebbe malissimo. Malissimo si è già restata. Da quando la conosco non si è aggiustata per niente. Comunque mamma non c'entra se il mare è agitato. Non si sa, non si sa. Potrebbe essere passata sulla spiaggia. Non ci è passata. Il mare è cattivo da 10 giorni. Noi siamo al mare e dobbiamo fare il bagno in piscina. C'è una piscina qui? Infatti. Non sapevo che ci fosse. Sì, infatti, non c'era prima, l'abbiamo fatta fare. L'abbiamo? Chi? Noi, signore. Abbiamo fatto una colletta e l'abbiamo fatta. Con la collaborazione del proprietario dell'albergo che ci ha prestato il terreno. Momento. Momento. Calma. Con la calma si aggiusta sempre tutto. Mia piccola cara, da quanto credo di aver capito, la piscina non c'era. No. Non c'era. Allora tu e altre leggiadre signore sì. Come te avete fatto una colletta. Sì. Con il ricavato della quale avete fatto fare una piscina su un terreno dell'albergatore. Sì. In modo che la piscina rimane di sua proprietà, ma noi ci possiamo fare il bagno. Pagando. No, gratis. Ah, e quanto ognuna di voi ha speso? 500.000 lire per uno, le altre 7 signore. Io ho pagato 2 quote perché l'idea è stata mia. Eleuterio, da quando in qua emetti fumo dal naso? Non è fumo, è vapore acqueo. Eleuterio, la gente che trema mi dà sui nervi. Stai fermo. Mi muoverò ancora per poco, poi mi fermerò a guardare. Eleuterio, non sta bene dare fuoco alle tende. Eleuterio, fermi e ti aiuto, concierge. Fermate Nerone. Vieni qui, non fuggire, la fiamma è bella e divora, brucia. Anche le faccende come te brucia. Cameriere, un fiasco di benzina, mezzo e mezzo. Al fuoco, aiuto, ho sposato un drago, aiuto. Ricordo tutto perfettamente, ma quando arriverai sabato sarà come se non fosse successo niente, anche se all'improvviso hai realizzato nell'albergo l'incendio di San Francisco. Non dirò niente, ti verrò incontro col sorriso sulle labbra. Ciao. Sono lieta di rivederti, Eleuterio. Ti aspettavamo. Io e il signore degli ombrelloni. C'è da pagare la fatturina delle sdraio, degli ombrelloni e dei tavoli. È una piscina senza comodità. Non è una piscina, non credi?